a dicembre. Il mio nome è Willy Wonka. Sono una sorta di mago e cioccolatiere. Scopri come Willy è diventato Wonka. Ho un'idea. Da dove cominciamo? Dal cioccolato, ovviamente. Dal regista di Paddington. È buono. E dai produttori di Harry Potter. Troppo buono. Tutte le cose belle a questo mondo sono cominciate con un sogno. Perciò tu tieniti stretto al tuo. È tempo di cambiare il mondo. Timothée Chalamet è Wonka. Dal 14 dicembre al cinema. This podcast has been produced with Pod Cleaner. IPN. It's in the game. Carissimi amici di Archeologia Videoludica, bentornati a questa seconda parte della puntata 5X06 dedicata al Commodore 64. Nello specifico, come avevamo annunciato nella puntata precedente, questa volta parleremo di hardware. Anche in questo episodio, come nel precedente, c'è con me a farmi compagnia in questo percorso Alex Raccuglia. Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Tu sei sempre quello dell'MSX, ricordiamolo. Lo so, però ripeto, io sono sempre stato un videogiocatore di lato, nel senso, perché magari alcune cose non le giocavo, ma seguivo le cose. Allora non esistevano i podcast, non esisteva YouTube, non esisteva un sacco di cose, ma però, anche se non si può dire ma però, per me esiste. Bellissimo. Eh? Ma però è bellissimo. Io, cioè, imparavo a memoria, che ne so, Zap. Non so se tu lo ricordi. Sì, se lo ricordano tutti. Praticamente Zap era la Bibbia. E io sapevo vita, morte e miracoli dei videogiochi del Commodore 64, pur non giocandoli direttamente. Per cui per me sì, è come parlare di un mito. Anche perché poi allora, sai, quando sei bambino, sei ragazzino, non c'hai i soldi, se vuoi qualcosa del genere devi aspettare che qualcuno te lo regali, la mamma, il papà, la cresima, la comunione, le cavallette, non è colpa mia, cioè, per cui era una sorta di oggetto del desiderio di cui sapevo tutto, ma di cui, cioè, lo toccavo quando andavo a casa degli amici a giocare. E anzi, cioè, poi magari quando ci giocavo veramente, notavo che non era così bello come me l'ero sognato, sai, questa è proprio aneddotica pura, cioè lo vedi sulle riviste e dica cavolo che figata, questo gioco deve essere la fine del mondo, anche se gli è andato due, cioè non hanno capito, va che grafica, va che roba, poi dopo ci giocavi e dice sì vabbè, ma, beh, sì, in effetti. Ma anche no, però ripeto, dal mio punto di vista Commodore 64 è sempre stato l'oggetto del desiderio e il punto di riferimento. Certo, no, questo è vero. Diciamo che poi chiaramente, e questo magari lo ha potuto verificare un po' anche, che ne so, le persone che hanno ricercato successivamente, magari quelli più giovani che non hanno vissuto quel periodo lì, ovviamente nella mitizzazione del Commodore 64, alla fine sì, chi è andato a vedere magari i vecchi video dice, beh sì, però un po' è tutta sta cosa, no? Però in realtà poi adesso scopriremo proprio in questa puntata qui che delle differenze, delle peculiarità, anche delle paraculate, insomma, il Commodore 64 ce l'aveva, perché aveva delle grandi differenze rispetto alle altre macchine, alcune idee mutuate magari da altre realtà, alcune idee originali e che poi hanno fatto in modo che questa macchina diventasse quello che poi è diventato. E noi infatti in questo episodio capiremo il perché poi è stata la number one nell'ambito 8 bit dei videogiochi. Allora Alex, io prima di, magari poi dopo ci ritorniamo così facciamo un po' di chiacchiere anche noi, direi di partire subito proprio a sprombattuto. Prima di tutto però diamo un annuncio, che dato che ci piace tanto fare gli annunci, abbiamo detto che questa serie di puntate del Commodore 64 vanno a chiudere un percorso di archeologia videoludica. Confermiamo questa cosa, anche nelle ultime settimane hanno continuato ad arrivare mail, messaggi, ma no, ma com'è possibile, però possiamo dire una cosa, che faremo, fino a che non avremo ridefinito quello che faremo nel nostro futuro, degli speciali come questo qui sul Commodore 64, e abbiamo proprio testé deciso diciamo in una riunione lampo di redazione che faremo un po' la stessa cosa che abbiamo fatto col Commodore 64, che stiamo facendo col Commodore 64 anche sulla macchina Amiga, giustamente proprio perché X-Planet Dust, ma fa bene, potevi scegliere Mario, no, magari come nome, tra i tanti, in effetti negli ultimi commenti che abbiamo ricevuto però ci fanno notare: ma non avevate detto che facevate anche la monografia su Amiga? C'ha ragione, l'avevamo detto, quindi... Però, ma sì, ma anche chi sti cavoli, cioè nel senso, noi possiamo dire quello che vogliamo e ritrattare sì, quello che vogliamo, finché non firmiamo un contratto, ciao! No, è vero, però insomma, voglio dire, penso che tra i passaggi storici, no? Voglio no, dire, beh, assolutamente. No. Il Commodore 64 credo che sia stato per noi il computer dell'infanzia, ma l'Amiga è stato per noi il computer dell'adolescenza. E quando cresci, ti cresce il pisello, è ovvio che in quel momento, cioè, sei ultra ricettivo su ogni cosa. Poi, soprattutto, se ti cresce il pisello e sei abbastanza nerd da non poterlo utilizzare, allora il computer diventa assolutamente ancora di più un punto di riferimento. E l'Amiga è stato un computer talmente rivoluzionario che l'averlo utilizzato solo per i giochi è stato qualcosa di sin troppo riduttivo. Vabbè, però stiamo divagando e lasciamo queste cose per lo speciale che sicuramente faremo prima o poi. Sì, infatti, prima o poi, con calma. Quindi voi comunque il feed di Archeologia Videoludica tenetelo sempre ogni tanto sotto controllo, anche la pagina, quindi andate a vedere ogni tanto, così vediamo se è successo qualcosa e vedrete che possono uscire fuori delle sorpresine che insomma saranno sempre gradite. Quindi torniamo a sprombattuto sul Commodore 64. Ovviamente, come tradizione oramai, soprattutto in questa stagione di Archeologia Videoludica, non può mancare, infatti qualcuno sul Giado se lo domandava, la retro rassegna stampa di Morgan, che ci introduce l'argomento, e subito dopo partiamo con appunto la mia discussione insieme a Carlo Sant'Agostino, anzi la sua discussione insieme a me, che dicevo cose e lui mi cazziava però vabbè, quella ormai è una prassi praticamente storica, e poi ritorniamo io e Alex per concludere, insomma, di dare un po' una chiosa, insomma, a questo episodio che doveva uscire un po' prima, ma vedete che purtroppo siamo indaffarati, abbiamo da fare. Va bene, allora partiamo con la retro rassegna stampa. Cari amici di Archeologia Videoludica, bentornati da Morgan alla nostra retrorassegna stampa dedicata in questo episodio all'ammiraglia Commodore, ovvero il Commodore 64. Bene, partiamo con la rivista americana Microcomputing di marzo 1983, con un dettagliato articolo di presentazione del nuovo 8-bit Commodore dal titolo «La Commodore lancia sul mercato un campione» di Robert Baker. Il Commodore 64 dà prova delle sue promesse annunciate: un'eccellente grafica e sonoro, compatibilità con le periferiche del VIC-20 e 64K di memoria, il tutto a un prezzo che sarà difficile da battere. Il Commodore 64 si presenta uguale ad un VIC-20, ma dalla carrozzeria di color marroncino. Eppure sono enormi le differenze tra le due macchine, ad iniziare dalla tastiera, dal medesimo layout, ma più piacevole al tocco. Il Commodore 64 è molto più di un VIC-20 a 40 colonne. La porta delle cartucce è compatibile con il nuovo Commodore Max, ma non con quella del VIC. Il microprocessore è lo stesso usato nella serie PET della Commodore. Riguardo la grafica, sono disponibili diverse modalità in carattere e in bitmap, oltre ad una cosa chiamata sprites. Il chip grafico 6567 o VIC-2 vi stupirà. Ogni carattere può essere mostrato in uno dei 16 colori disponibili. Il VIC-2 supporta due modalità bitmap, ma sfortunatamente le routine di grafica in alta risoluzione sono troppo lente per essere gestite in BASIC. Sarà preferibile programmarle in assembly. Gli sprites sono uno speciale tipo di carattere programmabile. Tutto ciò che dovrete fare è dire allo sprite che forma, che colore avere e dove apparire. Il chip VIC-2 farà il resto. Programmando il linguaggio macchina potrete abilitare lo split screen, miscelare testo e grafica in alta definizione e muovere oggetti fuori dall'area dello schermo. Riguardo il sonoro, il Commodore 64 è dotato del più sofisticato sintetizzatore sonoro elettronico a corredo di un computer, il MOS 6581 detto SID, munito di tre canali, ognuno programmabile indipendentemente, dotato anche di filtri applicabili per attenuare le frequenze armoniche di ognuna delle voci. I parametri del SID sono controllati dal 29 registri di memoria, i cui valori possono essere anche modificati dinamicamente durante la riproduzione per creare entusiasmanti effetti sonori. Il BASIC 2.0 del Commodore 64 è praticamente lo stesso del VIC-20 e della serie PET della Commodore. Nessun nuovo comando è stato introdotto per facilitare la gestione della grafica e del suono, ma Commodore ha promesso speciali cartucce che consentiranno espansioni del BASIC a parte. Il microprocessore è il 6510, molto simile al 6502 montato sul VIC-20, PET, Apple e Atari. Per la compatibilità con il linguaggio CPM verrà introdotta entro l'anno una cartuccia contenente un processore Z80. Riguardo i floppy disk, il formato dei dischi è compatibile col vecchio standard Commodore e parecchi programmi del PET e del VIC gireranno con poche modifiche. Per finire, ritengo il Commodore 64 un eccellente prodotto, le cui vendite schizzeranno presto alle stelle. Bene, passiamo a Electronic Games numero 5 di maggio 84, edizione italiana, dove un articolo dal titolo Computer, ora che ce l'hai, ecco che ci fai, si propone di far luce sulle applicazioni professionali dei vari home computer e riguardo il Commodore 64 punta l'attenzione su Magic Desk, l'applicativo Office realizzato dalla Commodore nel 1983. Magic Desk è un chiaro esempio delle possibilità applicative del Commodore 64. Con questo programma puoi spostare la mano che appare sullo schermo usando il joystick e indicando gli oggetti della scrivania puoi trasformare il computer in una macchina da scrivere elettrica, archiviare le pagine scritte nei classificatori, stampare automaticamente le tue lettere, cancellare tutto quello che non serve e infine controllare il tempo mentre lavori, il tutto con Magic Desk. Sempre su Electronic Games, ma in questo caso il numero 6 di giugno 84, appare una foto di un tradizionale Commodore 64, nell'articolo intitolato I nuovi Commodore. Ecco la nuova linea Commodore, la compongono il modello 116, C16 e il 264. In realtà, poi leggendo l'articolo, ci rendiamo conto che quello che appariva come un tradizionale Commodore 64 non era altro che un prototipo del Commodore 16. Sul numero 13 di novembre 82, appunto di MC Microcomputer, troviamo un trafiletto nelle news dal titolo Arrivano i nuovi Commodore. Il mese successivo, sul numero 14 di dicembre 82, a pagina 18 troviamo una breve anteprima sul Commodore 64. Ma è sul numero 18 di aprile 84, con un articolo di Mauro Di Lazzaro, che si approfondisce concretamente la macchina con un pezzo intitolato semplicemente Commodore 64. Andiamola a spulciare. Il Commodore 64 per molti professionisti potrà essere la macchina dalle dimensioni ideali per semplici compiti di archiviazione o trattamento testi. Intendiamo però mettervi in guardia dal pensare di ottenere prestazioni e caratteristiche di macchine più grandi e di maggior costo. La parte superiore dei tasti è antiriflesso. La tastiera, come già detto in occasione del VIC-20, è una delle migliori per un personal di basso costo. Manca però il tastierino numerico. Il profilo è ergonomico, arcuato in modo da seguire il movimento circolare delle dita. Possiede una quantità di memoria più che sufficiente per la maggior parte delle applicazioni. Ma attenzione, con il solo registratore a cassette è facile arrivare a oltre un quarto d'ora per salvare o ricaricare un programma di grosse dimensioni. Il costo di questo registratore si avvicina a un decimo del costo della unità base. Su schermo si può scegliere fra 16 colori. Il BASIC è residente in ROM ed è lungo 8K. Il sistema operativo è della stessa lunghezza e secondo noi merita una lode. È particolarmente moderno e modulare. È evidente il frutto di anni di esperienza maturati a partire dalla produzione del PET 2001. Notiamo con piacere che anche dopo un'accensione molto prolungata, più di 48 ore, lo chassis non presenta nessuna sua parte riscaldata in modo evidente. Disegnando in grafica punti singoli ci sono sempre dei problemi di colore. Ad esempio, disegnando dei singoli punti bianchi su sfondo nero, l'effetto è di vederli rossi o verdi. Un trucco che ha utilizzato la Commodore per minimizzare questo difetto è che la configurazione iniziale di colori è di testo blu chiaro su sfondo blu, che appunto è una di quelle combinazioni che minimizzano il difetto. Questo inconveniente è dovuto al fatto che il clock dei punti e la sottoportante colore non sono in rapporto armonico semplice. In ogni caso facciamo i complimenti alla grafica del Commodore 64, che attendiamo di vedere sfruttata in giochi di sicura qualità e utilizzabile in BASIC con delle cartucce aggiuntive. Riguardo la musica, il Commodore 64 è munito del SID, il processore che pilota tre oscillatori che spaziano da frequenze bassissime fino ai 4000 Hz e permettono l'esecuzione di musiche davvero stupefacenti. Non è, come alcuni potrebbero pensare, un'escursione limitata, poiché le armoniche contenute in un'onda quadra o a dente di sega di questa frequenza sono elevatissime. Con il rumore si possono inoltre ottenere tutti i suoni necessari ai giochi, le esplosioni, gli spari, i sibili, oppure suoni di accompagnamento musicale come i piatti. Grazie al connettore per le espansioni si possono emulare i videogiochi Ultimax della Commodore, in modo da utilizzare le stesse cartucce. Inoltre si possono aggiungere cartucce tipo Programmer's Aid o altre che si sostituiscono alla ROM. Abbiamo provato la cartuccia RS232 seriale venduta insieme al VIC-20 e l'abbiamo trovata perfettamente funzionante anche con il Commodore 64. Anche la stampante, che è la stessa del VIC-20, funziona perfettamente. L'unità a disco è la stessa appunto del VIC-20 da 170K, ma viene però fornita con delle ROM diverse. Parlando del sistema operativo, è in grado di dare soddisfazioni particolari a chi abbia voglia di costruire delle periferiche o interfacce. La macchina è inoltre corredata da un manuale in inglese di 166 pagine. Per finire, il Commodore 64 ha un rapporto prezzo-prestazioni che rimane estremamente favorevole. Bene, sempre su MC Microcomputer, durante tutto il 1984, Andrea De Prisco cura una serie di approfondimenti didattici sul Commodore 64, come ad esempio il pezzo pubblicato sul numero 31 di giugno 84, intitolato Commodore 64, scrolling fine e grafica in alta risoluzione. Faremo una carrellata sui modi di carattere del 6567, sul modo di colore esteso e ci occuperemo in questo articolo degli ambienti di grafica ad alta risoluzione del Commodore 64. Ovviamente, com'è stile di quella rivista, si tratta di un articolo di facile lettura ma molto tecnico, che troverete, così come tutti gli altri, nelle note dell'episodio. Un altro articolo, sempre della serie curata da Andrea De Prisco, appare nel numero 34 di Microcomputer, intitolato 16K di ROM, il basic e il sistema operativo, come funzionano? Questo mese daremo un'occhiata all'interno del 64, ponendo particolare attenzione all'architettura del sistema e al funzionamento dal punto di vista software. Il Commodore 64 potrebbe essere letto, senza troppi sforzi, il computer da smanettone. È una macchina aperta, come si suol dire. Lo testimonia anche il fatto che tutte le sue effettive caratteristiche non sono direttamente utilizzabili da tastiera o da basic, ma in alcuni casi è necessaria una vera e propria cultura sugli interrupt e un'esperienza di programmazione in linguaggio macchina per sfruttarle appieno. Basta citare lo scrolling fine, l'alta risoluzione, i caratteri multicolor, che non vengono nemmeno citati sul manuale di istruzione. L'articolo poi prosegue, ma chiudiamo con la serie di Andrea De Prisco pubblicata su MC Microcomputer con una curiosità apparsa sul numero 42 intitolata Como Coffee 64, colleghiamo la caffettiera al nostro 64. L'argomento di questo articolo è l'interfacciamento di apparecchiature funzionanti a 220 volt al Commodore 64. Basta un piccolo relè a 6 volt opportunamente collegato e le applicazioni possibili per utilizzare il Commodore 64 come microcontrollore si contano a decine. Dall'ingranditore della camera oscura al termosifone elettrico, dalle lampade colorate per una festa, al forno per la moglie o per la mamma, eccetera. L'articolo poi prosegue con gli schemi elettrici ed il listato in basic per controllare la caffettiera. Sulla versione italiana di Commodore Gazette del settembre 86 troviamo un articolo dal titolo I nuovi nati in casa Commodore, il Commodore 64C, il futuro del Commodore 64, ovvero il Commodore 64C. La Commodore Business Machine all'inizio dell'85 ha tentato più di una volta di sospendere la produzione del Commodore 64. Ma le pressanti richieste hanno puntualmente costretto la compagnia a riattivare le linee di montaggio e riconfigurare le proprie strategie. Dal tentativo di abbandonare la produzione si è così passati a quella di rafforzare ulteriormente il mercato, introducendo migliorie e nuovi prodotti, così come il 64C. Nella confezione del computer è incluso anche il GEOS, un nuovo sistema operativo che, sfruttando al massimo le potenzialità dell'elaboratore, ne ottimizza il rendimento. La metamorfosi è così completa, il Commodore 64 è pronto per una nuova vita. Il primo numero della rivista di settore Retro Gamer dedica una completa retrospettiva di oltre 10 pagine al Commodore 64 e tra l'altro dice: perché era grande? Il Commodore 64 fu una macchina multifunzionale. Ad assicurarle il successo in Europa fu il suo immenso catalogo di giochi e utility, col quale nessun altro sistema del periodo riuscì a competere. Nonostante la Commodore insistesse nel promuoverlo come uno strumento di lavoro, a cavallo degli anni Ottanta divenne la piattaforma per il divertimento di giovani e meno giovani, anche se in effetti la prima versione assomigliava più a una cassetta del pane. Preso atto del buon andamento del VIC-20, la Commodore doveva decidere cosa fare con i suoi nuovi chip. Alla fine creò quello che sarebbe diventato l'home computer più amato di tutti i tempi. Gli ingegneri della compagnia si trovarono con dei nuovi chip, il VIC-2 e il SID. Questi chip furono in un primo momento destinati al settore arcade, ma nel novembre 81 Jack Tramiel, il boss della Commodore, decise di utilizzarli per creare un nuovo home computer a 8 bit. A contribuire massicciamente alla nascita del Commodore 64 fu l'acquisizione avvenuta da parte della Commodore, qualche anno prima, della tecnologia MOS, con la quale era possibile fabbricare chip più rapidamente ed economicamente che in altre compagnie. Gli osservatori non riuscivano a spiegarsi come avrebbe potuto la Commodore vendere il suo computer a un prezzo inferiore ai $600, ma le loro mascelle sarebbero cadute sul pavimento alla notizia che il costo di manifattura era di soli $135. Il Commodore 64 si affermò largamente nei paesi scandinavi, in Germania, in Olanda e in Italia, ma non riuscì a diventare il numero uno in Francia e in Spagna, dove subiva la concorrenza dell'Amstrad CPC 464, e neppure in Inghilterra, paese nel quale l'umile Spectrum continuava a tenergli testa. Oltre ai dischi e alle cassette, il Commodore 64 poteva anche usare delle cartucce, ma questo formato, abbastanza diffuso all'inizio, venne messo progressivamente da parte. I giochi su cartuccia risultarono in tutto circa 300, una modesta percentuale rispetto all'immenso catalogo per questo home computer. Il SID era unico, non ci fu niente di simile prima, né ci sarebbe stato dopo. Grazie al SID, il sonoro riuscì a influenzare, come mai in precedenza, la produzione di videogiochi. Tanto che, dalle colonne sonore del Commodore 64, sono derivati nel corso degli anni remix, album commerciali, jingle e persino concerti dal vivo. Il SID costituì davvero un esempio unico in tutta la storia dei videogiochi, formando una vera e propria categoria di musicisti professionisti. Il Commodore 64 finì anche per fagocitare i nuovi modelli della Commodore, quali il Commodore 16 e il Plus 4, che si attestarono su un mercato di nicchia e rapidamente scomparsero appena scese il prezzo del Commodore 64. Nel 1987 il Commodore 64 fu oggetto di un restyling. Lo chassis divenne più snello, avvicinandosi al design dell'Amiga e del Commodore 128, e la macchina prese il nome di C64C. La produzione del Commodore 64 ebbe termine nel 1993. La macchina era rimasta sul mercato per 11 anni, sopravvivendo al fallimento della stessa compagnia, avvenuto l'anno seguente. Ma il software commerciale continuò a essere disponibile fino al 1995. Bene, anche per questo episodio è tutto. Vi lascio con un caro saluto, rammentandovi che le scansioni integrali degli articoli trattati in questa puntata potrete trovarle nelle note dell'episodio. A risentirci da Morgan. E rientriamo con questa seconda parte dedicata al Commodore 64, questa grande chiusura, insomma, con la quale abbiamo deciso, insomma, di salutarci per un periodo di tempo, e torno con Carlo Sant'Agostino. Eccomi qua, ciao. Eccolo qua. Abbiamo detto, insomma, abbiamo raccontato la storia dal VIC-20 al Commodore 64. Rimaniamo sempre sullo stesso blocco, però a questo punto andiamo veramente un po' più sullo specifico, andando a parlare proprio della macchina, perché poi il termine macchina forse non è manco appropriato, perché macchina immagino qualcosa di meccanico, no? Vabbè, ma comunque è normale, cioè, almeno noi in italiano spesso definiamo macchina un computer, perfetto, o qualunque cosa. Qualsiasi cosa esatto, qualsiasi cosa è macchina, funziona. Pure l'automobile è macchina, esatto, tutto sono macchine, come l'automobile, il computer, qualunque cosa, la stampante, qualunque cosa. Comunque sì, in questa puntata cercheremo di entrare più possibile in quello che può essere il dettaglio tecnico. Mi manterrò comunque, cercherò di mantenermi più sullo storico, no? Giusto per descrivere la puntata. Parleremo del dettaglio tecnico, ma ovviamente nell'ambiente, nel contesto storico. Storico di questo avvenimento, perché in effetti, e questo viene ripetuto da più parti e può essere molto condivisibile, gran parte del grande successo del Commodore 64 deriva anche dal suo hardware, diciamo, da questa alchimia di chip disegnati per questo computer, che hanno contribuito sicuramente al grande successo di questo 8-bit, diciamo a questo 8-bit che chiamiamo il campione degli 8-bit, come possiamo definirlo. Beh, quello, sì, che, dai, quello che poi alla storia l'ha nominato, poi in realtà l'ha nominato, diciamo, il più rappresentativo, no? Spesso anche quando facciamo esposizioni, mostre, si vede chiaramente, qualunque volta mettiamo fuori un Commodore 64, su 10 che passano 8 si fermano davanti al Commodore 64, ed è sempre stato così, perché è una questione ovviamente numerica, di ricordo, di, sì, anche d'affezione, molti di più ce l'hanno avuto, esatto, certo, quindi è anche logico. Senti, io ti faccio la prima domanda, così almeno organizziamo un po' anche la discussione. Tu l'altra volta giustamente hai raccontato storicamente il fatto che il Commodore 64 è uscito, non dico proprio a ridosso, ma è uscito come tempi in maniera molto ravvicinata rispetto all'uscita del VIC-20, nel senso che il successo del VIC-20 ha spinto Commodore a voler costruire immediatamente un'altra macchina, giusto? Sì, c'è anche da contestualizzare in questo ambito che dal 1979, diciamo, fino a più o meno il 1987-88, l'evoluzione dell'informatica personale, quindi di personal home computer e anche delle console in generale, comunque l'evoluzione di quell'ambiente è stata una cosa che mai più, che non si era mai vista prima e mai più si vedrà dopo. Cioè, giusto per darvi un'idea, è vero, è passato pochissimo tempo, ma è passato pochissimo tempo, scusami, pochissimo tempo. Pochissimo tempo in tutto, cioè 1980 ZX81, per farci un esempio, ZX80, 81 lo ZX81, un K in bianco e nero, 80, sempre l'81 il VIC-20, nell'82 il Commodore 64 lo Spectrum, nell'84 è uscito il Macintosh, nell'85 l'Amiga. Sì. Cioè, pensate, in 5 anni c'è stata un'esplosione proprio, cioè, un'evoluzione di questo tipo, pensarla adesso sarebbe sconvolgente. Certo. Cioè, guardate solo come evolvono adesso, per fare un esempio che può essere più calzante per, diciamo, per il pubblico che può comprenderlo, cosa cambia dalla PlayStation 3 alla PlayStation 4 o dalla Xbox 360 a quella nuova. Qualche milione di poligoni, sì, però diciamo che se io le accendo tutte e due, le metto attaccate a un televisore, difficilmente trovo una persona normale che capisce la differenza tra uno e l'altro. Poi il fanatico dice: oh, guarda, è più fluido, c'ha più poligoni. Ok, sì, va bene, certo. Ho capito, ma la variazione è relativa. E se vogliamo, lo è anche dalla PlayStation 2 alla PlayStation 3. O comunque, e guardate gli anni che sono passati, soprattutto, certo. Cioè, quanti anni tra un modello e l'altro, quanti anni anche tra una scheda video per PC e un'altra. Se io prendo la Voodoo 3D per mitico, esatto, e prendo una ultima generazione, sì, è ovvio che io mi accorgo della differenza, ma non è così sostanziale agli occhi del pubblico non competente questa differenza. Beh, okay? diciamo che sulle nuove macchine, soprattutto sulle console delle ultime e penultima generazione, è in effetti proprio come dici tu, ma questa era una questione che si poneva anche prima che uscisse l'ultima generazione, si diceva, esatto, beh, tanto cosa vuoi che potrà fare di più, no? Poi in realtà le differenze ci stanno anche, però, sì, però non è sostanziale tra il basic del Commodore 64 e l'interfaccia grafica dell'Amiga. È un po' come, insomma, per dirti, il Retina, gli schermi Retina sull'iPad, per fare un altro esempio che non c'entra niente, cioè tra un iPad normale e l'iPad con Retina, se io lo do a mia mamma, Vuoi che lei si accorga della differenza? Vabbè, sì, no. Poi dopo c'è anche chi riesce a percepirlo e chi no, no, nel senso... Vabbè, ma però... in generale... No, cioè, no, no, è chiaro, è chiaro, è chiaro. È ovvio che se uno invece a quell'epoca vedeva uno ZX81 e l'Amiga 1000, vuoi che... capisse la differenza, sì, erano passati solo 5 anni, cioè, quindi era una cosa che l'evoluzione dal punto di vista tecnologico in quel periodo ha avuto un boost, una velocità molto molto più elevata di tutto quello che succederà poi negli anni successivi rispetto sia al prima che al dopo, certo. Però, quindi ci però, stava dicevo... anche che la Commodore lanciasse in così breve tempo delle macchine, una più potente dell'altra in brevissimo tempo, perché gli scappava l'evoluzione, cioè, no, ormai esatto, sono già evoluti, scappava, però è ovvio che iniziava però a proporle in maniera differente, cioè differenziava, diciamo, quello che era il target di mercato, okay, sì, però invece proprio qua io volevo arrivare, perché poi in realtà queste due macchine che escono in maniera abbastanza ravvicinata escono anche esteticamente estremamente simili, cioè nel senso poi i due computer quello era solo una questione di costi della Commodore, di mantenimento dei costi, perché se vuoi è anche la stessa tastiera del VIC-20 con 64 era quella del PET, perché non voleva cambiare le linee di produzione, certo, però cioè, se tu vai a vedere, no, per esempio il Commodore VIC-20 c'aveva, ecco, i colori che erano più chiari perché era bianco con i tasti funzione marroni chiaro, se non ricordo male, e il 64 invece era quel marroncino scuro un po' più beige e con i tasti un po' più scuri, no? Poi in realtà questo, sebbene magari dal punto di vista dell'informatica in generale, magari nei paesi più evoluti può non aver creato confusione, io mi ricordo in Italia sta cosa un po' di confusione, perché mi ricordo si facevano le pubblicità addirittura comparate insieme, Commodore VIC-20 e Commodore 64, come se certo. In realtà fossero quasi la stessa macchina. In realtà non lo era. Non lo era, ma erano differenziate per prezzo e per target, come è giusto che sia. Cioè, dal punto di vista marketing aveva perfettamente senso per loro, perché anche se una macchina era, diciamo, più evoluta e più potente dell'altra, una costava molto meno. Certo. Quindi differenze. Tu guardi le pubblicità dell'epoca, erano molto diverse. Quella del Commodore 64 e quella del VIC-20 trovavi nei negozi, poi li trovavi assieme con i due prezzi, ovviamente linea Commodore, no, e te dirò che invece io mi ricordo una pubblicità in televisione che mi ingannò poi questa cosa, in realtà poi non me ne frego niente perché ero comunque strafelice di aver ricevuto il VIC-20. Io mi ricordo questa cosa di questo spot pubblicitario dove c'erano questi due computer e scorrevano le immagini, che ne so, di International Soccer del Commodore 64. Allora tu immaginavi, ok, quella è un po' meno, però se lo fa uno lo fa pure l'altro, invece in realtà non era così, perché il VIC-20, se noi andiamo ad aprire il ce li abbiamo in parallelo, non cominciamo a aprire sto cofano, no? Perché poi sì. Alla fine erano due cofani, sì. No? Cioè, c'era un mondo di differenza, insomma. Ma ho capito, però probabilmente quella, adesso vado a intuizione, perché io quella pubblicità non me la ricordo, quindi sto andando a intuizione, molto probabilmente quella pubblicità non era di Commodore, ma era di qualche rivenditore / negozio che vendeva Commodore, magari okay. La catena di Melchioni, per dirti, no? Si può o qualche altro, considera che in quel periodo poi le pubblicità molto spesso sia sulle riviste che anche in televisione le facevano i negozi che vendevano non tanto le marche stesse, sì, le facevano anche la marca, ma meno rispetto soprattutto alle TV private di quell'epoca, eccetera, dove c'era più pubblicità, se vuoi. Certo, magari erano gli importatori stessi, magari anche che facevano. L'importatore era Arden, però già ai tempi del Commodore 64 c'era la Commodore Italia, quindi no, però Commodore Italia poi rivendeva all'inizio era l'Arden, la società che importava Commodore in Italia, ma già all'inizio del VIC-20, con il lancio del VIC-20 già diventò Commodore italiana, prima SRL e subito dopo SPA, quasi subito dopo. Pensa, io c'avevo un negozio Commodore proprio vicino casa. Sì, sì, era piena l'Italia di negozi Commodore, alcune insegne credo che siano abbiano resistito, sì, fino a Roma, a ce n'è anni uno, fa. A San Pietro ce n'è ancora uno, proprio che in realtà ancora, non so se c'è più anche quello, comunque sì, fino a pochissimi fino a 3-4 anni fa c'era, comunque c'era con l'insegna Commodore centro assistenza. Beh, stiamo parlando comunque, come ho detto nella prima puntata, nel 1984-85 era la prima azienda produttrice, esatto, di personal computer, esatto, nel mondo, vendeva più di IBM nel segmento personal computer, quindi certo, stiamo parlando veramente di una potenza esagerata. Se consideri che appunto la Commodore filiale italiana nel giro di 2 anni passò da importatore esterno a Commodore italiana SRL a Commodore italiana SPA, cioè già nell'84 era SPA in Italia come azienda, quindi giusto per darti solo l'Italia, solo per il mercato italiano, poi a livello mondiale ancora di più. Però ritorniamo un attimo in topic, tu mi stai dicendo le differenze tra VIC-20 e 64, c'erano le differenze ed erano principali, ovviamente uno è uscito prima, l'altro è uscito dopo, e come ho spiegato prima lì bastava che passasse un anno e la tecnologia era cambiata tantissimo e facevano delle cose fantascientifiche rispetto a quello che succedeva l'anno prima, e però venivano vendute entrambe le linee, sono state vendute per diverso tempo in maniera parallela con target diverso, fino a quando poi i costi del Commodore 64, introducendo linee ancora maggiori come per esempio nell'85 introducendo l'Amiga 1000 eccetera, e poi nell'87 il 500, il 2000, il Commodore 64, il VIC-20 esce e il Commodore 64 prende il settore completamente del Commodore, di quello che era il Commodore VIC-20, quindi, e questo succede in pochissimi anni, ripeto, 83, 84, 85 fino all'87, quindi stiamo parlando veramente di una manciata di anni che per noi nel nostro immaginario però sembrano una vita, ovviamente, anche perché la maggior parte di quelli che adesso hanno tra i 40 e i 50 anni in quel periodo erano teenager, si avvicinavano al mondo dell'informatica, alle prime passioni, quindi un mese di quell'epoca ti sembra un anno di adesso nel tuo ricordo praticamente. Sì, in effetti, diciamo, dal punto di vista proprio della cronorizzazione del periodo, di quanto tempo dedicavo, quanto tempo ho passato su quella macchina, esatto. C'è un po' più di confusione in effetti, però... Sì, ma lo vedo perché ricostruendo io da un punto di vista proprio temporale, storico, gli avvenimenti, mi accorgo che spesso delle cose che sono avvenute in quegli anni, che mi sembrava un tempo infinito, in realtà si trattava di pochissimi mesi, e anche tante cose che io pensavo, madonna, ma quante cose ho fatto, in realtà sono cose che magari ho fatto in 2 mesi, certo. In quel periodo era così, eravamo giovani, avevamo il tempo anche avevamo il tempo, esatto, andavamo a scuola, il resto si usava per fare quello che ci piaceva, insomma. Vabbè, comunque noi abbiamo aperto questi due cofani. Abbiamo aperto questi due cofani. Apparentemente, pure lì, cioè per un profano, apparentemente pure lì non è che c'è. Sembra insomma, roba verde con roba appiccicata nera, no? Sì, esatto. Diciamo che la gran parte allora. Faccio una premessa che può chiarire molte cose. Gran parte delle limitazioni che noi troviamo negli home computer di quel periodo sono dovute principalmente alla poca disponibilità di memoria RAM, di memoria in generale, perché la RAM, la memoria in quegli anni era la cosa che costava di più in assoluto, cioè il VIC-20 perché inizia a uscire a vendere tanto in quel periodo lì e costava poco? Perché aveva poca RAM ed erano riusciti a fare un computer che funzionasse con pochissima RAM. Un computer completo, quindi con basic, uscita video, audio, eccetera, ma che riuscisse a funzionare con pochissima RAM. Il fatto della limitazione della RAM è la madre di tutte le limitazioni che avevano quei computer in quegli anni. Infatti, potenzialmente, cioè già con la tecnologia, come si è appunto visto nell'evoluzione che ho dato prima, di quel periodo, uno sarebbe potuto uscire un computer che faceva le cose dell'Amiga già nel 79, ma non usciva perché non avevano disponibilità di memoria tale per supportare quella tipologia di caratteristiche audio video che poi si sono viste in seguito. Infatti il VIC-20, il chip del VIC-20, che era quello che dava poi il nome al computer, perché il VIC-20 si chiama così per il video interface chip, che è il VIC, cioè il chip che all'interno del VIC-20 fa tutto, cioè il VIC, che è il 6560 della MOS, che è stato progettato dal Charpentier nel 77, che però fino all'80-81, quando è uscito il VIC 20, prima in Giappone e poi nel resto del mondo, non era stato utilizzato. Era stato pensato inizialmente per riuscire a far uscire a colori la linea PET, no? Infatti il progetto che ha dato origine al VIC era il Micro PET. Il Micro PET è quel progetto che ha poi dato la possibilità a Commodore di progettare il VIC 20, che era appunto cercare di fare un computer che funzionasse con pochissime RAM e che quindi costasse molto poco e fosse piccolo, il Micro PET. Infatti nel chip VIC 6560, che è l'unico chip del VIC 20 extra a parte il microprocessore, il 6502, fa anche l'audio, al contrario di quello che succede nel Commodore 64, che le cose sono più distribuite. Sì, perché lì il grande successo del Commodore 64, come ho detto all'inizio, è molto dovuto al suo hardware, che come tanti progetti di successo non è che quando l'hanno pensato già erano lì a dire ah, questo sarà il successo incredibile, cioè è un po' un insieme di casualità e di momenti magici, se vogliamo, no? Per creare un prodotto che poi diventa quello che è diventato. Una delle caratteristiche, perché ho accennato dell'audio, perché se vogliamo il chip più rappresentativo del Commodore 64, seppur buono il VIC 2, cioè l'evoluzione del VIC, quello che si occupa della grafica, non è il VIC 2, ma è il chip che si occupa dell'audio, il SID. Se vogliamo, questo è il chip che più all'interno del Commodore 64 è l'hardware che più lo caratterizza e lo distingue da tutti gli altri computer del periodo. Questo perché il chip audio del Commodore 64, per la prima volta, un chip che produceva segnali audio dedicato all'audio di un computer veniva progettato e disegnato da uno che si intendesse anche di musica, cioè Robert Yannes. Robert Yannes infatti proprio dichiara poi in interviste successive che non era affatto contento dei chip che giravano all'epoca per la generazione dell'audio su computer, perché diceva sicuramente quelli che li hanno progettati non sapevano un cavolo di musica, diciamo tra virgolette, e durante la progettazione del SID lui introduce per la prima volta delle caratteristiche che io adesso, non essendo un specialista della musica, non so descrivere bene, però quello che lui chiama l'envelope generator, non chiedetemi la traduzione in italiano corretta, non te la so dire perché non mi intendo di musica. No, ma poi tanto, però, faremo poi un capitolo con Alex proprio specifico. Ecco, su questo è la prima volta che viene introdotto nella storia, diciamo, della creazione di chip per home personal computer, e infatti poi diciamo il successo del SID è una cosa che trascende, diciamo, il Commodore 64, cioè viene ancora oggi riconosciuto, usato e considerato come uno dei chip per quella che adesso chiamano la chip music, no? Questo sì, ambiente di musica sintetica, migliori del mondo. Ci sono un sacco di musicisti che lo usano ancora oggi, ancora oggi. Macchine dedicate dove ci sono solo tutto dentro tutto il panorama della chip tune e via dicendo. Esatto. Quindi, se vogliamo, questo è dal punto di vista proprio di originalità e di caratteristiche, il chip che nel Commodore 64 trova una sua prima volta. Quindi è una cosa che aveva solo lui e che per anni ha avuto solo lui e nessun altro computer o un computer di quel settore segmento è riuscito a avvicinarsi alle caratteristiche di questo, sì, poi, di questo come, come ho detto, vabbè, poi ne parleremo in seguito con Alex, però mi ricordo appunto c'erano i Music Maker, c'erano tanti software anche proprio specifici, certo, e poi dedicati, una serie di programmi dedicati per far musica che prosegue, come giustamente hai detto, ancora oggi nel tempo. E invece parliamo del chip video. Il chip video è l'evoluzione di quello che sta nel VIC 20, no? Quindi il VIC. Il VIC. Ah, okay. Il VIC. Gli levano tanto, gli levano l'ingombro dell'audio, ok? Cioè, quindi lo scorpano. Sì, lo spostano. Giannis aveva collaborato nel primo, sì, e già questa era una cosa positiva. Ma la cosa fondamentale che introducono nel VIC 2 sono gli sprite. Perché nel primo VIC non c'erano gli sprite, era solo un character generator, cioè il VIC 20, la grafica del VIC 20 funziona solo con i caratteri, una modalità a caratteri, cioè noi abbiamo una definizione dello schermo che è divisa in X per Y caratteri, ognuno può avere un colore di fondo, un colore di ink, diciamo, di inchiostro del carattere, nella cosiddetta alta risoluzione, che è molto bassa per quanto riguarda il VIC 20, e poi la modalità multicolor, no? Che ecco, questa la introduco perché fu introdotta con il primo VIC, la modalità multicolor, e poi ripresa ovviamente nel VIC 2 del Commodore 64, raddoppiando la risoluzione, ma era una modalità che cercava riuscire a fare una grafica migliore con la poca memoria che avevano a disposizione. Come ho detto prima, il problema erano i limiti di memoria, certo, che avevano a quell'epoca. Quindi si sono posti il problema: come facciamo in modo ad avere più colori, a definire più colori, visto che comunque abbiamo questa quantità limitata di memoria? Una delle soluzioni fu appunto questa modalità multicolor, che era semplicemente l'idea geniale che stava alla base era questo, cioè se noi abbiamo un byte, no, che sono 8 bit, quindi sono 8 punti che definiscono una linea del nostro carattere, io con 8 punti posso definire 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, quindi ho acceso o spento. Lo spento è di un colore, l'acceso è di un altro colore, quindi solo due colori. Se io invece questo gruppo di 8 bit, anziché farci 8 pixel, ce ne faccio 4, quindi il mio pixel, anziché essere grande 1 bit, è grande 2 bit, quindi la sua larghezza è raddoppiata, però uso 2 bit per definirlo, quindi ho 4 valori possibili, un fondo e 3 possibili inchiostri. Quindi riesco a usare più colori all'interno della mia celletta, che sarà sempre grande 8x8, in teoria 8x8, ma in realtà come definizione è diventato un 4x8, ok? 4 pixel per 8 di lunghezza, perché anziché usare un bit ne sto usando due per disegnare ogni pixel del mio carattere. E questo è la famosa grafica grassa, se vogliamo, del Commodore 64, che fu introdotta originalmente nel VIC 20 come grafica grassissima, perché già il pixel del VIC 20 era più grosso, un multicolor diventava molto grosso. Però questa possibilità di usare più colori era fondamentale per i videogiochi, perché i videogiochi erano, se colorati, erano meglio ovviamente che i videogiochi, certo, in bianco e nero, no? Se vogliamo, solo con, anche se più risoluti, se vogliamo, cioè hanno una risoluzione più alta, ma era meglio meno risoluzione più colori piuttosto che più risoluzione meno colori. Quindi da una parte o dall'altra dovevano togliere per ottenere, perché la RAM era quella alla fine, quindi non è che ci facciamo un percorso anche esemplificativo. Allora, il VIC 20, tu quando lo accendevi, allora, intanto, come abbiamo detto, il VIC 20 aveva solo la modalità a caratteri, quindi non aveva di per sé una vera e propria modalità grafica, no, giusto? Allora, qua c'è da chiarire una cosa: modalità caratteri o bitmap, da un punto di vista visivo, sono la stessa cosa, è la gestione che cambia, okay? Ok? Ma da un punto di vista visivo sono la stessa identica cosa, nel senso che tu hai tot pixel per tot pixel, poi li gestisci con un character mode e a caratteri ridefinibili, li gestisci con un bitmap mode, quindi direttamente puntando i bit della mappa grafica, visivamente il risultato è lo stesso, cambia il modo in cui lo gestisci dal punto di vista della programmazione. Vabbè, sì, okay. È un po' sottile come concetto, in realtà, per chi è un po' più profano, in realtà la differenza ci sta, e come, nel senso, alla fine è avere uno sprite o avere il pupazzetto disegnato. No, sto parlando di sprite, okay. Sto parlando solo di gestione dello schermo bitmap, perché anche quando lo accendevi 64 mica ti apparivano gli sprite, no, ti apparivano i caratteri, chiaro, dire, basta, però, quindi insomma, non è che gli sprite, quella sono un'altra cosa, comunque diciamo, okay. Allora, il VIC20 c'ha sti bei caratteroni, no, sto fosse la risoluzione che era molto bassa, molto bassa, e quindi il carattere 8x8 era bello cicciotto. Esatto. già andando sul Commodore 64, ovviamente con la risoluzione era raddoppiata, quindi eri sempre in character mode, esatto, quando lo accendevi, quindi stessa identica, se vuoi, modalità video, esatto, però la risoluzione, invece era, invece 20 colonne ce ne avevi 40, ma adesso bravissimo, vado a memoria, non so di una cosa così. Sì, non sono esattamente così, sono, non mi ricordo se 32 o 24, dovrei andare a prendere gli appunti. Sì, vabbè, comunque diciamo che quello che il cursore cicciotto 8x8 40 sul VIC, sul 64 sono 40, esatto, sul VIC20 erano di meno, e oltretutto sul VIC20, siccome il chip era un pochino più primitivo, cambiava anche la risoluzione a seconda se eri in PAL o se eri in NTSC, perché ovviamente dipendeva molto dalla generazione del segnale video sullo schermo, e quindi ecco, infatti 176x184 pixel quando eri in NTSC, nella versione invece sul PAL eri a 224x256, quindi sul PAL avevamo più risoluzione che sui VIC20, allora, per capirci, americani. Prendete i vostri televisori HD, Full HD 1080p, sì, e immaginate un quadratino nell'angolo di, no, veramente, esatto. Noi che l'abbiamo visto, e quello quando lo vedevamo ci sbalordiva, oggi veramente magari per uno di questa generazione dice, ma che è, no, nel senso, esatto. Eppure era la meraviglia, un altro, no, mondo, quello, esatto. No, ma tu accendevi il VIC20, diciamo che facciamola semplice, accendevi il VIC20, vedevi un bel quadratone grosso di un centimetro e mezzo che si accendeva e si spegneva, che era il cursore grande, esatto, un carattere. Bel cursore blu, poi, esatto. Accendevi con 64 e il cursore era ovviamente più piccolo, la metà, esatto, molto più piccolo di quello del VIC20. Detto questo, la modalità a caratteri, cioè il modo in cui veniva gestito, diciamo, la mappa video era la stessa, ma la grande innovazione del Commodore 64 fu l'introduzione degli sprite. Oh, e lì ci gli sprite, esatto, ricordiamoci, non fu il primo computer a introdurli con Commodore 64, perché gli sprite esistevano già da diversi anni. Se vogliamo, il primo chip che introduce il concetto di sprite è quello dell'Atari 2006, esatto, anche se si chiamavano in un'altra maniera, se non sbaglio, no? Ma anche sul Commodore 64 si chiamavano in un'altra maniera, okay. Sprite è come li chiamiamo adesso, ma perché? No, in realtà io, cioè, anche all'epoca, quando leggevo le riviste vostre, roba, cioè, comunque sì, si usava il termine sprite no? Però originariamente nella prima versione del VIC 2, gli sprite venivano chiamati, adesso te lo dico, nella primissima versione del manuale, perché poi da lì in poi si cominciarono a chiamare sprite in maniera corrente, non lo trovo, tipo moving object qualcosa, niente, non trovo più l'appunto, non mi viene fuori, te lo dico. Comunque, in realtà l'idea di sprite fu mutuata dal chipset video più famoso dell'epoca, che era uscito da qualche anno e che veniva utilizzato in tantissimi computer, e sarebbe stato utilizzato da lì in poi in molti computer, che era il TMS 9918 della Texas. Il TMS 9918 della Texas utilizzava gli sprite, e proprio i Carpenter e gli altri si ispirarono a questo chip per inserire nel VIC 2, cioè del Commodore 64, la modalità degli sprite. Per darti un'idea, questo chip della Texas è stato introdotto nel T99 4A nel 79, ma poi è stato utilizzato nel ColecoVision, nel CreativeVision, nel Memotech, nell'MSX, nel Sega SG-1000, l'SG-3000, lo Spectra Video, il Sord M5, l'Einstein della Tatung, e in versioni più evolute nel Master System, nel Game Gear e infine anche nel Sega Mega Drive. Poi è arrivato alla tecnologia 3D e lì insomma il concetto okay, di sprite. Quindi giusto per dirti la, diciamo, l'evoluzione di questo chip della Texas. Poi vi promettiamo che entro il 2020 faremo una puntata su archeologia informatica proprio sugli sprite, perché in realtà è una cosa un po' da anche già il termine stesso, no? Nel senso, perché, da dove è nato, no? Cioè cercando sì, il termine in effetti bisognerebbe andare a cercare, faccio un piccolo ricerca, esatto, sì, perché sì. Questo sull'Atari, sul TIA e sulle versioni successive venivano chiamati Player Object e Missile Object. Esatto, sì. Esatto. L'Atari mi pare una missile, no? Missile e anche player, perché loro distinguevano due tipi diversi di sprite che avevano caratteristiche diverse, certo, perché nel gioco c'era il player e c'era il missile, no? Pensando ok. E avevano caratteristiche, uno poteva fare delle cose, l'altro ne poteva fare altre. Comunque diciamo che il concetto alla fine era quello dello sprite che viene dopo. Cioè, qual è il concetto, se vogliamo, di sprite? Quello di poter creare degli oggetti che sono indipendenti dalla bitmap sottostante, ma che vengono sovraimposti alla bitmap direttamente dal chip, e che quindi hanno caratteristiche di movimento, di posizionamento, di individuamento delle collisioni tra di loro, che non influiscono su quello che tu disegni sotto sullo schermo, e ti permettono quindi di creare appunto i videogiochi in maniera molto facilitante dal punto di vista della programmazione, perché è l'hardware che se ne occupa. Cioè, e qui io racconto un aneddoto, come al solito racconto i miei fantastici aneddoti, cioè questo per far capire quello che sta appunto dicendo Carlo in questo momento. Se tu facevi il tuo listato basic e stavi facendo, che ne so, un giochino semplice e avevi scritto il tuo sprite all'interno del listato, così come si faceva, tu ricordi lo schemino 8x8, certo, no? E via dicendo, e avviavi il tuo programmino, c'era magari la pallina che tu hai fatto che rimbalzava nello schermo, però c'era un errore nel programma, il programma si interrompeva e lo sprite rimaneva impresso nello schermo, anche se tu facevi scorrere il listato, cioè era veramente... Sì. Era come se fosse veramente sovraimpresso, appiccicato sopra. No, non era come se fosse. No, però per far capire, punto. No, nel senso, quello che quando io scorrevo questa cosa, se non vedi che per rendere un concetto esemplificabile, gli sprite sono su un layer esterno allo schermo, quindi è come se io prendessi un foglio di carta trasparente, un lucido, lo metto sullo schermo e su questo schermo ci disegno delle cose. E a me questa cosa mi ha sempre affascinato, comunque, proprio una cosa incredibile, non so perché, ma ti affascini con comunque poco, diciamo, però... il concetto è quello. Infatti nel chip della Texas, che era quello da cui hanno preso ispirazione per creare la versione degli sprite del Big 2, che rispetto a chip Texas erano migliorati da un punto di vista di potenzialità, era proprio il concetto di infatti lì avevano anche il concetto di colore trasparente, cioè gli sprite avevano 16 colori, però ne usavi 15 e poi uno era il buco, cioè quello che ti faceva vedere lo schermo, ok? Questo per darti l'idea proprio del fatto che gli sprite sono un layer sovraimposto allo schermo. Questa caratteristica degli sprite è stata fondamentale anche per il successo nel mondo dei videogiochi del Commodore 64. Esatto. Diciamo che gli sprite, da un punto di vista informatico, proprio di personal computer, servono quasi a niente. Servono specificatamente per giocare. Anche perché lo sprite si muoveva fluidamente sullo schermo, non andava a blocchi di caratteri, no? Dipendente dai caratteri, non si muove. Se tu guardi i giochi del Big 20, ne vedrai molto pochi che riescono a muovere fluidamente un omino, perché non avendo sprite si basava sui caratteri, quindi o lo muovevi sulle posizioni, chiaro, certo. Esatto, o se no, se dovevi spostarlo fluidamente dovevi fare un programma che spostasse il mio disegnino all'interno di un carattere, ma così come lo facevi su Big 20 con tutti i computer che non possiedono sprite, quindi partendo dall'Apple 2 arrivando fino allo Spectrum della Sinclair, certo, dovendo aggiungere routine all'interno di un hardware, esatto, che c'ha 3K, quindi, questo cioè... non vuol dire che sull'Apple 2 e sullo Spectrum non posso far muovere un oggetto fluidamente, posso, però ho delle limitazioni molto più elevate perché lo devo fare tutto via software, Levando risorse poi. consumando risorse e sottostando magari a limitazioni come quello di essere costretto a usare sempre la stessa bitmap, no? Il famoso color clash che si introduce sullo ZX Spectrum, che diventa famoso con lo ZX Spectrum, è perché hai solo quello, c'hai solo la bitmap, quindi c'hai solo gli attributi e quindi c'hai, devi per forza disegnare, diciamo, lo spread che si muove all'interno della bitmap, dove tu l'unica possibilità di definizione dei colori che hai è quella nella cellette di 8x8. È una discussione recente che tu sai che c'è stata, dicevano sì, no, sul color salvato non c'è. Clash, non è vero, cioè non è che non c'è il color clash sul color salvato, ci sarebbe se tu utilizzassi solo la modalità bitmap. Se tu potessi solo usare la modalità bitmap del 64 saresti costretto a vedere il color clash, infatti lo vedi nelle pochissime schermate in alta risoluzione tra virgolette che si vendono sul Commodore 64, vedi che appunto ci sono degli errori dovuti al fatto che non puoi mettere più di due colori in una cella di 8x8. Però tutto questo diventa diciamo poco importante perché tutti gli oggetti in movimento su 64 li posso fare con gli sprite, esatto. E quindi me frega più niente, e li faccio vince, con gli vince, no, poi il 64 vince, gli hai messo gli sprite, gli hai messo il chip sonoro dedicato che è diventato poi un cult nella storia, esatto. Che allora il soprattutto il fatto degli sprite e del chip video in realtà ce li abbiamo su Commodore 64, anche questo per una casualità, perché in realtà loro stavano disegnando quel chip, era stato disegnato e progettato per una macchina che era molto più console per videogiochi, che era il Commodore Max, no? Che esce in Giappone l'anno prima del Commodore 64, dove il target era proprio quello di andare a colpire le console di videogiochi dell'epoca. Quindi ci ritroviamo poi il VIC-2 nel Commodore 64, anche quando si cerca di fare l'evoluzione del VIC-20 ma dedicato al mercato home computer, personal computer. Ecco, consideriamo che in quegli anni, soprattutto all'inizio degli anni 80, non era molto chiara come la vediamo adesso. Noi la vediamo sempre dopo, no? Le cose ricostruiamo col senno a di posteriori, poi certo. Posteriori tu dici ah beh, chiaro, hanno fatto il computer che poi andava a prendere il mercato delle console. Non era chiaro nell'82 che il mercato delle console sarebbe morto di lì a poco e che il mercato del personal computer avrebbe occupato quel segmento, andando poi successivamente di nuovo a morire, eccetera eccetera, cioè tutta l'evoluzione che c'è stata dopo. Ma quindi non è che l'hanno fatto con l'idea di fare un computer che fosse anche un videogioco, no, diciamo che è un caso che ci fossero gli sprite. Se l'avessero dovuto progettare con 64 avrebbero fatto come il VIC-20 o come il successivo Plus 4, per intenderci, C16, che dal punto di vista delle capacità visive era per l'ambito videogiochi era molto inferiore, se vogliamo, dal Commodore 64, proprio perché era pensato per quel segmento di mercato che doveva essere, diciamo, l'utilizzo domestico del computer tra virgolette serio, quindi non per fare videogiochi. Sì, infatti, scusa se ti interrompo, c'ho una domanda proprio su questo, perché se non sbaglio, magari correggimi, il Commodore 16 aveva più colori rispetto al 64 ma non aveva gli sprite, giusto? Ho detto la allora, adesso, no, hai detto giusto, nel senso che aveva più colore, una palette migliorata. Anche più belli, tra l'altro, perché Commodore 64 sappiamo che c'aveva questi 16 colori. Su questo che... c'è una cosa da dire che ho scoperto recentemente, perché anch'io ho sempre saputo che, se vogliamo, un punto debole, tra virgolette, del Commodore 64 era proprio sulla palette di colori che erano... Che erano quei colori caratteristici che sono un po' slavati, sì, se vogliamo, sì, no? Cioè, un po' pastello, diciamo, se vogliamo pastello, però in realtà ho scoperto che la versione NTSC del VIC chip non c'è sto problema, e i colori sono molto più vivi, il rosso è bello rosso, mentre da noi il rosso è un po' marroncino, un po' smorto. E anche questo è dovuto al fatto che fu progettato in NTSC, cioè la generazione del segnale, che è ricordiamoci non è RGB nel Commodore 64 ma è composito, cioè il video viene generato da segnali YC come il Super VHS, cioè Luma e Chroma, ok? E invece nella versione NTSC questa generazione di segnali ha un risultato molto migliore rispetto alla versione, rispetto alla versione PAL. Beh, però poi alla fine mo, al di là di tutto, anche si vedono in tutti gli screenshot in generale, no, il Commodore 64, questa sua pastellosità, diciamo così, è diventata, sì, anche una firma alla fine, no, nel senso di, comunque tu una schermata del Commodore 64 la riconosci immediatamente, no, rispetto magari, che ne so, un TX 99 4A, vedete, era o non era, non lo sai, insomma, no? Nel senso. Allora, scusami, ma sì, scusa, comunicazione di servizio. Si sentivano i puit puit puit che mi scrivevano? No, nel microfono? Non mi sembra. Allora, aspetta un attimo perché non riuscivo a parlare perché era. Ti distraevano. Ti distraevano, esatto. Ecco, scusami. Ecco, riprendo dal punto che mi. Allora, vado. Sì, allora le distingui le schermate con 64, anche se in realtà ce ne sono alcune che faresti fatica, secondo me, a capire se sono del Commodore 64 o di altri. C'è da dire che, sempre parlando di chip video, per esempio i chip della famiglia Atari, che erano direttamente derivati da quelli del VCS, e l'evoluzione del TIA, il Color, TIA, eccetera, quelli che sono stati dopo progettati da Jay Miner, avevano per esempio una palette di colori molto più ampia, avevano 256 colori ed erano addirittura precedenti. Anche quelli avevano gli sprite, ma per alcune caratteristiche erano inferiori agli sprite che hanno progettato nel VIC 2 del Commodore 64. Però tu dici 256 come palette totale, non sì, a schermo. Palette. No, c'erano delle modalità che te li davano anche tutti i 256 a schermo. Ah, però comunque, detto questo, anche lì avevi tutta una serie di limitazioni dovute a problemi di memoria, e se vogliamo, se poi vai a confrontarli punto per punto, è superiore in alcuni casi nella palette dei colori e nella quantità di colori, ma è inferiore in moltissimi altri casi, soprattutto per quanto riguarda la gestione degli sprite, il movimento, lo scrolling hardware. Ecco perché un'altra cosa che veniva inserita nel VIC 2 era lo scrolling hardware, fondamentale, cioè per i videogiochi. E comunque, dicevo, il chip TIA del, giusto per dare un'altra informazione, Jay Miner è poi quello che progetta i chip video dell'Amiga, che sono diretta evoluzione del TIA e dei chip che c'erano sulla linea 8 bit degli Atari. Quindi i chip video degli Amiga, che tutti ricordiamo per quello che erano da un punto di vista proprio di cambiamento epocale che introdussero in quegli anni, sono derivati non da un progetto Commodore, ma se vogliamo da un progetto Atari che poi viene, confluisce all'interno di Commodore, però questa è un'altra storia. Purtroppo quindi, anche dell'Amiga bisognerebbe parlarne, perché io lo sarei, questo lo faremo, ma quasi non so dove, mo vediamo, poi ne parliamo. Però ecco, cioè, per esempio, poi la cosa straordinaria è che la meravigliosa grafica dell'Amiga, però tutto sommato ha comunque a risoluzione standard erano 32 colori, cioè erano il doppio di quelli del 64, venivano da una palette super ampia, voglio dire, però insomma no. Non è molto più complicato. È un po' più complicato. Vabbè, allora ne parliamo in luoghi appositi e momenti esatto. appositi. O molto, molto più complicato. Comunque, il discorso era che stavo facendo era per spiegare proprio perché sto dicendo che il chip più rappresentativo, se vogliamo, del Commodore 64 fu quello audio, perché quello veramente introdusse delle cose che non si erano mai viste all'epoca. Quello video in realtà prendeva un po' dal VIC precedente, aggiungeva cose che si erano ispirate dal chip della Texas e dagli altri chip che c'erano in giro all'epoca, però riesce per questa strana alchimia a produrre una cosa che, messa insieme al SID, messa all'interno di questo computer 64K di RAM e col 6502, a produrre la magia, cioè esatto. A tirar fuori questo computer che veramente a fare in modo che, come dice la signora vecchietta della pubblicità delle sottilette, spacca, no? Spacca, esattamente. E in effetti questo tutti ce lo ricordiamo, cioè quando si vedeva il Commodore 64, i videogiochi per il 64 nel 1982-83 tutti rimanevano a bocca aperta, non c'era storia, diciamo. No, no, infatti, no, poi, soprattutto perché, ecco, come dicevi te, magari in Italia, in Europa in particolare, l'antagonista era lo Spectrum, ma forse non tutti hanno avuto la fortuna come me di avere avuto l'opportunità di giocare praticamente quotidianamente con entrambi, perché nel mio palazzo, appunto, il mio amico, il mio amichetto del cuore, insomma, aveva comunque lo Spectrum e erano mazzate praticamente. Ma guarda che questo era abbastanza normale in Italia, la diffusione fu tra questi due computer. Anche io mi ricordo, io avevo lo Spectrum e il mio amico nel palazzo di fronte aveva il Commodore 64. Cioè, io prendevo la cassettina di quelle pirata, te le ricordi quelle? Come no? Chi non, voglio dire? Famigerate cassettine pirata da edicola che in un lato erano Spectrum, nell'altro erano Commodore 64. Quindi io mi giocavo al lato Spectrum, poi andavo dal mio amico e caricavamo. E se giocavamo le lati, Commodore 64. Quindi io allo Spectrum ho invidiato solo una cosa, che poi dopo è arrivata anche sul 64, anche se in maniera un po' artificiosa, era la grafica durante il caricamento, che era quella schermata introduttiva, che per me era fantastica. Io non so perché, ma rimanevo proprio sbalordito da questa cosa. E durante il caricamento, che poi secondo me non era durante il caricamento, in realtà stava a caricare quello, quindi no, prima caricava quello e poi caricava il gioco. Quindi vai a vedere, era pure una perdita di tempo, tutto sommato, certo, no? Senso, assolutamente, però era bello, no? Nel senso, sì, diciamo che da quel punto di vista lì era perché su Spectrum, avendo solo e unicamente quella modalità grafica bitmap, se vogliamo, no? Quella color clash, tu potevi usare solo quella, quindi disegnavi, se tu facevi un disegno è ovvio che il color crash era più facilmente evitabile in un disegno fisso, certo, quindi certo, riuscivi a tirar fuori delle schermate anche belle, certo, e lo erano belle. Il problema era quando tu iniziavi a muovere gli oggetti, che a quel punto ti crollava, sì, tutto, sì, esatto. Perché infatti i giochi belli dello Spectrum erano quelli in isometrico a monocolore, magari, che esatto, chi se ne frega, perché i giochi erano belli, cioè nel senso questo è un altro discorso, sì, adesso, sì. Che andiamo a introdurre. Comunque, questo spero brevemente, anche se in realtà, come al solito, sono andato lungo, è, diciamo, quello che sta dietro all'hardware del Commodore 64 in maniera molto semplificata, e questi grandi personaggi che hanno progettato i chip che stanno all'interno del Commodore 64. E ricordiamoci anche il fatto che, essendo poi Commodore proprietario della MOS, per lei produrre chip e venderli all'interno dei suoi computer era un costo molto inferiore rispetto agli altri. Cioè, diciamo che con lo stesso costo con cui Commodore produceva un computer con due chip dedicati integrati, gli altri riuscivano a farlo con solo il processore. Quindi è anche per questo, per esempio, che a Sinclair per mantenere bassi i costi non mise coprocessori all'interno dello Spectrum, ma anche la stessa Apple, se vogliamo, con l'Apple 2, anche se è un progetto molto, molto più vecchio. Vabbè, sappiamo che braccetto corto lì, insomma. bene, sì. Io penso, insomma, che sostanzialmente sia questo, insomma, il discorso. E poi, come ha detto giustamente Carlo, il successo stava nelle due grandi intuizioni: una mutuata magari da esperienze precedenti, e una invece originale, con il fatto di montare questo SID, che appunto ha rappresentato la storia anche di un certo tipo di fare musica nei videogiochi, con la polifonia e via dicendo. Bene, poi particolarmente curioso anche l'aspetto che in alcune frequenze non sono anche sporco, che di suo in realtà ne ha fatto anche lì una firma, quindi una sua caratteristica molto molto forte, no? Perché se vai a vedere, sì, questo devi ovviamente sentire chi è più esperto di me nell'ambito dell'audio, certo, musicale, eccetera. Però sì, quello che possiamo riconoscere, come detto in precedenza, è che viene ancora oggi viene ricordato e usato come uno dei migliori chip per la musica elettronica, quindi certo, è assolutamente importante. Assolutamente. Bene, Carlo, Archeologia Videoludica ti ringrazia ancora per il grande contributo che hai dato, e poi, insomma, appunto, torneremo in qualche maniera a parlare di informatica, soprattutto archeologia informatica, perché abbiamo tre o quattro cose lì in concetto che ancora dobbiamo tirare fuori, soprattutto sulla grafica, che è un argomento, insomma, che interessa a molti, e molti appunto ci chiedono quando è che ne parleremo. ma ne parleremo, insomma, quindi dateci tempo, ok? Ok. Grazie di tutto. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao. Allora Alex, abbiamo insomma ascoltato questa lunga decentemente conversazione con Carlo, e Carlo sempre con le sue straprecisazioni ci ha fatto insomma scoprire anche aspetti, alcune cose le conoscevamo, abbiamo parlato del SID e ricordiamo che ne parleremo io e te poi di sto benedetto SID. Certo. Tu sei pronto, insomma, assolutamente. Il SID è stato una sorta, vabbè, ne parleremo la prossima volta, però il SID è qualcosa che ancora vivo oggi a distanza di 30 e rotti anni, per cui esatto, sti cazzi, cioè, sti cavoli, anzi no, me coglioni, scusami, mi confondo, me coglioni del Code 2 e la questione del VIC 2, insomma, questo chip grafico che in realtà non faceva come il precedente chip del VIC 20, che gestiva un po' tutto, in realtà il Commodore 64 ci ha avuto la grande intuizione di distribuire, diciamo, le informazioni e le cose ai vari componenti hardware, che facevano ovviamente per loro ogni parte delle varie cose, soprattutto nell'ambito multimediale, e questo lo ha reso insomma un computer forte. Io mi ricordo una cosa, abbiamo parlato con Carlo soprattutto del, ecco, andiamo a parlare un po' anche delle cazzate, no? Del fatto che il Commodore 64 c'ha sti colori un po' pastellosi, no? un po' smunti, mm-hmm. diciamo, un po' come il verde vomitino dell'Atari 2006, no? Di cui era storico, e lui invece ci ha fatto notare che in realtà era perché la frequenza video era praticamente pensata per gli NTSC, bravo, quindi per il sistema americano piuttosto che, e nella conversione ovviamente si perdeva un po' questo. Io non so se sia realmente così come dice Carlo, probabilmente lo è, però cioè voglio dire, anche storicamente quando andiamo a vedere nei siti, anche i siti internazionali, roba del genere, si vedono gli screenshot del Commodore 64, insomma i colori sempre quelli, so, mo per quanto possano un po' migliorare o essere un po' più accesi, ma insomma, ma ti dirò che... I due standard PAL NTSC e SECAM, che è quello usato dai francesi, che però è fondamentalmente un PAL con un cazzillo cambiato, sono radicalmente diverse, soprattutto per quanto concerne la gestione dei colori. Pensa te che storicamente, visto che i colori dell'NTSC sono sempre stati molto strani, qualcuno diceva che NTSC stava per Never the Same Color, cioè praticamente era impredicibile come venivano codificati i colori una volta trasmessi via etere e poi visualizzati nelle televisioni delle case delle persone. Ma fondamentalmente io credo che per poter apprendere, per comprendere pienamente lo spirito del tempo, dove l'elettronica, l'informatica avevano uno stile completamente diverso, io consiglierei a tutti i nostri teleascoltatori di guardarsi perlomeno la prima stagione di una serie televisiva che in Italia non è mai arrivata, che si chiama Halt and Catch Fire, non so se tu conosci. Halt and Catch Fire racconta gli anni dell'82, 83, 84 con la nascita dei primissimi cloni PC IBM. Ed è la storia di un gruppo di persone che cerca in maniera molto particolare di creare un clone a basso prezzo dell'IBM. E ok, è molto romanzato, è molto. C'è gente che scopa inutilmente. Anche se. sì, anche se le ma questo due... succede in tanti sententi. Sì, anche se le due donne della serie sono una più bella dell'altra, secondo me, me le sposerei tutte e due, magari insieme. Detto questo, è interessante vedere soprattutto la componente hardware, che era ancora molto forte e comunque legata a i piedi al software, perché allora non c'erano degli operatori, sistemi operativi che astraevano l'hardware, lì proprio c'è il programmatore, conosceva i piedini del chip, lo guardava, capiva come funzionava, e la grande forza e la grande debolezza di quel periodo è stato quella appunto di poter andare a lavorare chip per chip, condensatore per condensatore, resistenza per resistenza, a questi livelli, per andare a ottenere il massimo risultato col minimo sforzo, dove il minimo sforzo era, una volta che lo produciamo, non ci deve costare tanto. Infatti il Commodore 64 costava 170 rotti dollari dell'epoca ed era venduto a 500 circa, giusto? Cioè praticamente sì, il margine che aveva era lo stesso margine che ha oggi Apple con l'iPhone, con la differenza che Apple l'iPhone se lo fa costruire da Foxconn in Cina, invece lì fondamentalmente se lo facevano in casa, in house, perché avevano anche la fabbrica di semiconduttori, per cui tutte queste feature hardware, diciamo, che erano calibrate a doppio livello, una parte per per essere il chip general purpose, cioè che potesse andare bene a tutti e avere un mercato, però anche lo sfruttamento di questi componenti direttamente in azienda ti consentiva di aggirare alcune cose oppure sfruttare alcune peculiarità di questi componenti per ottenere il massimo risultato. Per cui ci sono sì delle idiosincrasie, però considerate che la più grande idiosincrasia di tutte, sempre, nell'elettronica di allora era appunto il costo della memoria, della RAM, per cui questi 64K di RAM, che era comunque il massimo che poteva essere indirizzato dal processore, era la cosa più costosa, per cui tutti questi risparmi sui colori, su queste cose, la gestione di queste cose, erano tutte volte al fatto di utilizzare meno RAM possibile per visualizzare lo schermo. Però di questo sicuramente, cioè nel senso, mi ricordo che ha parlato il buon Sant'Agostino, e sicuramente ne sa anche più di me, però più che altro Sant'Agostino ne ha parlato dal punto di vista tecnico, giustamente, e vorrei che fosse chiaro dal punto di vista economico e dal punto di vista storico. Cioè allora c'erano degli ingegneri elettronici, informatici, ma più elettronici, perché l'informatica era ancora una cosa che doveva venire, il cui compito era andare a togliere chip, andare a togliere complessità, in modo da riuscire a rendere una macchina producibile con dei costi di mercato accettabile. Ricordi la famosa scommessa storica di Steve Jobs e Wozniak, nel senso, ogni chip che tirate via vi diamo dei soldi, e Steve Jobs ha fatto tirare via una pagata di chip a Wozniak senza neanche pagarlo mai, per cui... E poi questo è veramente un dualismo assurdo storicamente, poi lui ne è consapevole ma se ne fotte, questo è un po'... credo che sia il punto di forza sia proprio quello, di riuscire a fottersene. Secondo me i grandi ricchi, sono anche grandi stronzi e consapevoli di esserlo, e che riescono a guardarselo comunque allo specchio la mattina senza, quando si fanno la barba. Però forse questo è un giudizio esagerato. Sì, però. No, vabbè, ma De Wozniak, io penso, mi sono fatto proprio l'idea, che poi non c'entra niente, l'aiutiamo anche qua, proprio del fatto che lui proprio veramente a lui gli fregava mettere le mani sulle robe, sulle schede, capito? Cioè, piuttosto che pensare ai soldi o roba del genere. Era uno scienziato puro, era un ricercatore, cioè per lui il piacere era più quello della scoperta, di riuscire a vincere la sfida, piuttosto che quello di diventare ricco. Poi, giustamente, lo è diventato ricco, giustamente, però credo che la sua, dal mio punto di vista, la sua più grande soddisfazione sia dire ho vinto la macchina. Ho costruito io la macchina, piuttosto che sono diventato ricco costruendo la macchina. Per quello c'era Steve Jobs, che appunto sono diventato ricco facendo costruire la macchina al tizio, a Woz. Comunque con Carlo dicevamo che poi alla fine questa questione dei colori, o perlomeno io sostengo, lui insomma era forse meno convinto, perché con Carlo è più facile parlare proprio dell'aspetto strettamente tecnico, no? Poi dopo di quello che è il risultato, no? Quello che esce fuori dal discorso meramente hardware è il fatto che questi colori, comunque il Commodore 64 alla fine ne definivano un po' una firma, no? Era un po', lo riconoscevi, no? Il gioco che era il Commodore 64, magari anche se non lo vedevi. Effettivamente sì, ripeto, secondo me era dovuto più una limitazione piuttosto che una scelta stilistica. Beh sì, diciamo che chiaramente non credo che sia stata una scelta stilistica, chiaramente ne ha dato poi invece comunque poi alla fine una caratteristica, no? Perché poi ecco, tante volte involontariamente noi lo dicevamo, non so se tu te lo ricordi, ma questo non c'entra niente, gli ascoltatori può fregargliene poco, no? Ti ricordi quando stavamo nei forum di videomaking, no? Roba del genere si diceva dei Sony Vegas, sto programma, sì, di montaggio, sì, sì. Che tu lo riconoscevi a palla di fuoco quando un video era montato con quel software lì, no? Sì. Perché aveva magari delle peculiarità volontarie o involontarie nel modo in cui renderizzava il video che alla fine lo rendevano in quella maniera. E secondo me la stessa cosa vale per il Commodore 64, tanto quanto il discorso dello scrolling, che secondo me è stato poi l'arma vincente, insieme al, perché poi il numero dei colori non erano quei 16 lì, poi dopo magari ne trovavano anche modi per tirarne fuori sfumature migliori o diverse robe genere, però insomma ecco, l'audio, lo scrolling, la velocità, insomma, quando i giochi erano programmati in linguaggio macchina, non in Basic, insomma, poi alla fine hanno reso questa macchina abbastanza immortale. Che cosa, chiudendo un po', che cosa, sintetizzando, perché secondo te, proprio a livello anche di quello che tu hai visto, di quello che hai potuto provare, di quello che hai potuto vedere o provare o giocare, perché questa macchina secondo te passa, è passata e rimarrà veramente nella storia, indipendentemente dall'audio, perché poi dopo dopo ne parleremo. Certo, certo. Beh, allora io credo per due motivi. Uno, ha avuto una certa diffusione per via del costo. Era comunque una macchina che aveva delle grosse potenzialità tecniche sin dall'inizio. Aveva un costo veramente competitivo, proprio perché Commodore si costruiva chip in casa. Questo però secondo me è solo parte della soluzione. Dal mio punto di vista credo che un programmatore, e allora i programmatori erano veramente tutto fare, un po' come un videomaker di oggi che appunto prende una camera, poi se lo monta, fa il sonoro, e fa l'audio, e fa la colorazione. Esatto. Lì allora i programmatori erano un one man band, un programmatore faceva tutto, e credo che lavorare su un hardware di questo tipo, piuttosto atipico, e che consentiva di fare cose che gli altri computer non facevano, fosse talmente divertente che uno si divertiva a farlo. Per cui c'era già comunque una base di sfruttabilità elevata. Questo ha generato il fatto che appunto c'era più programmi, oppure c'era comunque l'accessibilità a più programmi. Venivano costruiti questi videogiochi. I videogiochi facevano la base diciamo che c'erano tanti videogiochi da comprare, per cui la gente poteva comprarselo. Allora tendenzialmente tutti si compravano il Commodore 64, la base di utenza aumentava, per cui le software house vedevano, cacolo, sviluppare per Commodore 64 ci dà più soldi, perché c'è una base di utenza più elevata, per cui investiamo nello sviluppo di Commodore 64. Questa cosa ha generato un effetto di retroazione positiva che ha portato a farlo diventare quello che è diventato. Probabilmente per certi versi ai primi livelli era più facile sviluppare, insomma, per uno Spectrum, che aveva un chip solo, un chip molto conosciuto, però aveva delle limitazioni tali per cui a un certo punto, oltre a un certo punto, non poteva andare. Mentre su Commodore 64, con relativa facilità, riuscivi a, cioè, con un minimo di skill riuscivi a ovviare queste limitazioni, potevi fare un gioco a scorrimento, per dirti, e con molti più colori a schermo. Questa cosa ti dava comunque una maggiore visibilità, perché comunque lo stesso gioco sviluppato per Spectrum e per 64 era più bello su 64, e basta. A questo punto, cioè, la gente diceva, magari se avevi già uno Spectrum ti rosicavi, se potevi scegliere dicevi, vabbè, magari metto questi 100-200 mila lire in più, faccio un lavoretto, faccio litigare a papà e la mamma, così per scusarsi, per dirti, e allora finiva per diventare una sorta di oggetto che potevi avere. Il fatto stesso è che sulle riviste, penso a Zap, ma anche a Zap 64 in Gran Bretagna, c'era comunque il Commodore 64 che aveva questa qualità, questa possibilità, e allora dicevi sì, oltre ad essere comunque il diretto discendente del VIC-20, che ha avuto comunque il suo successo. Sì, sì, certo. No, infatti anche su questo abbiamo fatto un po' un parallelismo, che poi il Commodore 64 alla fine per scansarlo ci è voluto appunto l'Amiga 500, perché per buttarlo giù proprio dal trono ci è voluto qualcosa che andava veramente oltre. Sì, e comunque sempre partendo dai giochi, perché l'Amiga quando è arrivato era nato come computer professionale, e lo era. Era il primo computer del genere che aveva un sistema operativo preemptive con interfaccia grafica per le masse. È ovvio che si poneva sullo stesso livello di un Macintosh, però costava molto meno. Però finché non hanno cominciato... costava molto il 500, perché già quando andavi sul 2000, sul 4000 erano già workstation. Sì, però ripeto... il fatto che potevi attaccare un'Amiga al televisore ti dà la possibilità di vedere uno schermo più grande, per dirti, già invece il Macintosh aveva il suo schermino da 11 pollici, era un buco, e tu potevi comprare solo quello, non potevi comprare una macchina e comprare un monitor posteriore, almeno agli inizi. E per cui, però, finché non sono arrivati i primi videogiochi, che anche molto molto grossolanamente hanno mostrato le potenzialità di Amiga, cioè fino ad allora l'Amiga era comunque sì l'oggetto desiderio, ma lontano. Poi è arrivata la Cinemaware, che comunque con giochi relativamente semplici, ma che hanno puntato molto, ma molto, ma molto sulla grafica. Vedevi sulle riviste queste cose qua, dicevi, e sti cazzi, cioè e me coglioni, cavoli, questa cosa qui è un altro pianeta. Cioè, allora dicevi, questa roba qua può rivaleggiare con la grafica del bar, quei giochi da bar. Per cui ho detto, sì, anch'io lo voglio. sì, anch'io. va bene, dai, io penso che... hai da aggiungere altro? Se c'è qualche cosa che te di qualche peculiarità, curiosità che volevi dire, oppure no, direi che Carlo ha sviscerato qualsiasi cosa. Oddio, probabilmente quando c'è Carlo è difficile. Poi dopo. Secondo me dovremmo attaccare un registratore con 24 ore di autonomia a Carlo. Tu parla e tu noi andiamo via, facciamo e lui ci fanno due o tre stagioni. Esatto, sì, sì, tipo 24 ore con Carlo Sant'Agostino. Mamma mia, va bene, allora. Va bene, a questo punto insomma salutiamo tutti, diamo i riferimenti che non abbiamo dati all'inizio, quindi www.archeologiavideoludica.it, archeologia videoludica lo trovate come pagina su Facebook, Google Plus insomma, cioè fra un po' non lo diremo neanche più, @videoludica il nostro Twitter e archeologiavideoludica@gmail.com è la nostra posta elettronica. Se andate a cercare su iTunes Archeologia Videoludica vi iscrivete, tanto vi abbonate, tanto è gratuito, così come con qualsiasi altro podcatcher, pod aggregator o pod quello che usate, se usate Android o altri sistemi, anche lì insomma fate 5 stelle, fate una recensioncina che insomma fa sempre bene e ci fa piacere che oramai la trasmissione sia più o meno attestata tra le più importanti nell'ambito dei videogiochi, anche se purtroppo come vedete stiamo uscendo molto di rado. Per il resto la prossima puntata sarà una puntata dove sempre a livello di intro e outro ci saremo io e il mio compagno di viaggio Alex Raccuglia, ma si parlerà finalmente di videogiochi, perché dicevo, ma questa non è archeologia videoludica, e sì, si parlerà di videogiochi. Abbiamo diciamo trovato un espediente, sebbene un po' particolare, che è quello ovviamente di aver trovato il link di Ready 64 e parla dei 100 giochi più importanti della storia del Commodore 64. Noi ovviamente abbiamo fatto una sintesi, io, Carlo Sant'Agostino e Giuseppe Saso, quindi poi insomma ce la godremo, e anche lì insomma come ho detto con Alex faremo l'introduzione e la chiusura. Quindi Alex, alla prossima. Alla prossima, ciao a tutti, ciao ciao. Ciao ciao ciao. Destinazione Natale, a MacArthur Glen la Reggia Designer Outlet. Trova il regalo perfetto nelle oltre 160 boutique delle migliori firme, con sconti fino al 70%. Vivi la magia delle feste con noi e vieni a trovarci alla Reggia Designer Outlet.